The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Questo era il grandissimo Gil Scott Heron con questo brano storico, appunto del 1970, un brano di protesta tra i migliori brani, secondo me, in assoluto a sfondo politico mai pubblicati. Brano che, per chi non parla l'inglese, si intitola La rivoluzione non sarà trasmessa in televisione, in cui Gil incita l'ascoltatore all'azione perché you will not be able to stay home, brother. Non riuscirà, volente o nolente, l'ascoltatore restare a casa davanti alla televisione, e che da lì, da quel posto, dal divano davanti alla TV, non riuscirà mai a fare nessun tipo di rivoluzione. Quindi, dopo aver ascoltato Gil Scott Heron, direi di andarci ad ascoltare un'altra voce leggendaria, assolutamente leggendaria. Passerei a Isaac Hayes e questo suo brano, anch'esso molto conosciuto, del 1969, che si intitola Walk On By. Cosa possiamo dire di Walk On By? In realtà questa versione di Isaac Hayes è una sua reinterpretazione. L'ispirazione originale viene da un brano, una canzone composta da Burt Bacharach per quanto riguarda la musica e Hal David per il testo, è registrata per la prima volta dalla cantante Dionne Warwick. La versione del 1969 di Isaac Hayes è una versione, appunto, funk soul, registrata, contenuta nell'album Hot Buttered Soul, ed è una versione molto molto diversa dall'originale, in quanto appare come un funk ostinato di ben 12 minuti, un brano molto molto variegato e molto complesso, suddiviso in vari movimenti e ricco di assoli, soprattutto sono da notare gli assoli di chitarra e di organo elettrico, accompagnati da una strumentazione orchestrale come violini e fiati. Per pubblicarlo come singolo, il pezzo venne ridotto sotto i 5 minuti, ma siccome secondo me questo è un brano meraviglioso, vi propongo la versione integrale, che dura esattamente 12 minuti. Quindi ci ascoltiamo Isaac Hayes con Walk On By e ci risentiamo fra 12 minuti dopo questo viaggio ricco di assoli e atmosfere psichedeliche. Isaac Hayes. Thank you.

Isaac Hayes con Walk On By, e dopo questo capolavoro, capolavoro assoluto della storia della musica, direi di spostarci verso sonorità più semplici, o meglio, come a livello compositivo sicuramente più semplici, ma non per questo di minor bellezza. Ci andiamo ad ascoltare la voce di Dolly Leon, una cantante su di cui si hanno poche notizie in realtà, una cantante jazz e R&B attiva dalla metà degli anni 50 fino alla fine degli anni 50, quindi ha inciso pochissimi brani. Si conoscono le sue prime registrazioni fatte nel 1955 o 56, non si sa bene, con la Erskine Hawkins Orchestra, brani come Waltz in Blue e Nobody Plays Piano Like Sacramento. Una cantante che è stata parecchio dimenticata negli Stati Uniti, mentre in Europa e in Gran Bretagna in particolare è ancora molto molto apprezzata e conosciuta, soprattutto grazie al brano che ci andiamo ad ascoltare, che si intitola Palm of Your Hand, considerata a tutti gli effetti parte di quella che è la scena Northern Soul, e in Belgio in particolare per quanto riguarda il genere popcorn. Quindi ci andiamo ad ascoltare questa grandissima voce, anche se un po' dimenticata. Ci andiamo ad ascoltare Dolly Leon con Palm of My Hand. Questa puntata con Gil Scott Heron, che oltre per la grandissima qualità della sua musica è conosciuto per il suo attivismo politico. Barbara Dane è sulla stessa lunghezza d'onda, perché oltre ad essere una grandissima voce, una voce americana, una cantante di folk, blues e jazz, è stata anche una grande attivista politica. A livello vocale, ad esempio, il critico Leonard Feather la definì una Bessie Smith in stereo, mentre si racconta che Louis Armstrong, dopo averla ascoltata in un festival jazz a Pasadena, esclamò: la sua voce è ricca come un diamante da 20 carati. Dicevamo, appunto, il suo attivismo politico, si ricorda Barbara Dane per le sue lotte per i diritti civili negli Stati Uniti, per la protesta della guerra in Vietnam e soprattutto per aver fondato nel 1970 la Paradigm Records, con, insieme a suo marito, un'etichetta specializzata in musica internazionale di protesta. Quindi ci ascoltiamo un altro brano bellissimo, ci ascoltiamo un'altra voce bellissima, lei è Barbara Dane, il brano è I Am On My Way. Questa era Barbara Dane con il brano I Am On My Way. È arrivato il momento del nostro amichissimo con la rubrica L'America sta qua. L'America sta qua, annunciata da Toto Cutugno. Per questa puntata, per la rubrica L'America sta qua, ci andiamo ad ascoltare questo brano cantato da Stevie Wonder, che si intitola Passo le mie notti qui da solo, adattamento in italiano del brano Music Talk. Quindi ci andiamo ad ascoltare quest'altra grandissima voce che non ha bisogno di presentazioni, Stevie Wonder, con questo brano in lingua italiana, Passo le mie notti da solo. Questo era Stevie Wonder su etichetta Motown. Da un po' di puntate ci stiamo ascoltando questi riadattamenti in lingua italiana dei grandi artisti della scuderia, per l'appunto Motown in lingua italiana, per far arrivare queste grandi voci americane dell'epoca appunto al mercato della penisola italica. Quindi dopo la voce, la grandissima voce di Stevie Wonder, passiamo ad un'altra grandissima voce della musica americana. La voce in questione è quella di Barry White, cantante famosissimo, un cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico che nella sua carriera ha venduto più di 100 milioni di dischi. Barry White è conosciuto, ora così dicendolo un po' fuori dalle righe, dagli schemi, insomma, per i suoi classici lentoni d'amore e da pomiciamento, però in realtà ha iniziato la sua carriera anche con tantissimi brani di grandissima qualità e da ritmo non indifferente. E per questa puntata di Soul Time ci andiamo ad ascoltare questo suo brano inciso nel 1964, quindi agli inizi della sua carriera, questo brano che su etichetta possiamo trovare stampata l'etichetta nel dettaglio, un'etichetta faro, troviamo stampato come autori Barry White e and the Atlantics, e questo pezzo si intitola Tracy, All I Have Is You. Put on my hat, then I threw on my coat, ran through the wind and rain. Baby, baby, open up that door, tell me you love me once more. Then my baby said, oh, don't you know you love me? Oh, don't you know? Daddy, don't you know? Running down my eyes, I've gotta know if you're an angel or devil in disguise. Well, ain't that funny what a dream can do? Make you act like a fool, yeah, yeah. Even maybe not the one you love when you know all of it too. Then again, you said, oh, don't you know your love? Don't you know? Proseguiamo con le voci leggendarie della musica americana e del soul. Proseguiamo con un altro nome e un altro gruppo che abbiamo già avuto modo di ascoltare più di una volta qui a Soul Time e che sicuramente ascolteremo ancora. Ci andiamo ad ascoltare dopo un brano che mi piace tantissimo, come Tracy di Barry White, un altro brano che nella mia hit di tutti i tempi personale, quindi ci ascoltiamo Martha Rees and the Vandellas con questo gran brano anche molto conosciuto che si intitola Nowhere to Run. I know you. Bartories and the Vandellas con Nowhere to Run. Proseguiamo in casa Motown e ci andiamo ad ascoltare un'altra figura molto molto importante per la scena soul di Detroit e per l'appunto per la Motown. Il nome di questa figura importantissima è quella di Earl Van Dyke, un musicista nato nel 1930 e scomparso nel 1992, conosciuto principalmente, ma non solo, per essere il pianista di punta della Motown Records e del gruppo di casa, i Funk Brothers, di cui abbiamo già ascoltato qualcosa nelle puntate precedenti. Van Dyke è nato per l'appunto proprio a Detroit nel Michigan e ha suonato con appunto i Funk Brothers ed è accompagnato al pianoforte brani per musicisti leggendari. Ricordiamo brani come Bernadette dei Four Tops, I Heard It Through The Grapevine di Marvin Gaye, Runaway Child, Running Wild dei Temptation e tanti tanti altri. Ci andiamo ad ascoltare questo suo brano del 1967 che si intitola 6x6, che nel dettaglio è eseguito da Earl Van Dyke e The Motown Brass. Questo grandissimo brano, veramente bellissimo, è una figura molto molto importante per la Motown come Earl Van Dyke. Direi di chiudere con un ultimo brano questa puntata, di rimanere in casa Motown, e ci andiamo ad ascoltare questo brano delle The Velvets che si intitola Ain't No Place Like Motown, non c'è nessun altro posto come la Motown. Quindi ci risentiamo la prossima puntata, mercoledì prossimo alle 19 con Radio Wombat, e vi saluto con Non c'è nessun altro posto come la Motown e le Velvets. A risentirci, a presto su Radio Wombat.